check. Michel alias Michele Maxi B, alias Metro Stars, alias il live che vi pettina, alias vi buttiamo giù le casse, alias siamo qui per days da Lugano a Pescara per Remixland. Lo sapete, questa è la bomba del nuovo millennio, pompagliela dura days. Se mi chiedi il nome di due ottimi MCs dico Mimi Michel Maxi B. E siamo fuori con la scimmia Metro Stars Rap MySpace, lo sapete raga. Ma adesso pompagliela days. Questo è Remixland raga, state tutti attenti perché vi cadono le orecchie. Metro Stars Live.